la gioia d'amare. Lontano il paradiso per noi due non sarà, è fatta così la felicità. Contar tutte le stelle nelle notti cuore a cuore, with you, with you, with you. Sentir cantare il mare nell'eterna sua canzone, with you, with you, with you. Veder felici insieme il sole spuntare e tramontare in tutte e tutte l'ore. Sognare con te, sognare, accendere il cammino se la neve verrà giù, sempre with you. Neve verrà giù, sempre with you.